Quando son su, pago la tarsù. Quando sono in allegria, paghi la tia. Con una precisazione, dottor Avoledo. Dottor Avoledo. Quando sono in pari, pagherò la tari. Ce l'abbiamo davvero negli occhi questo colesterolo. Adesso daremo ad ogni medico che viene in trasmissione un nome nuovo. Tari, tari, amici miei, con Imu e Yuk sono Giacciuk, la tia per mia zia, la tari ci brucia i denari. Libero di nome di Libero. fatto? Sì. No, libero di nome, di fatto sono coniugato. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ecco, ma Nicoletta, te lo ricordi? Libero pensava che lo corteggiassimo e subito ha precisato: sono coniugato, perché lui è un uomo fedele, le altre donne, noi comprese, neanche le guarda. Beh, Deborah avrà un livello alto di ossitocina, l'ormone della fedeltà e anche della voglia, un po' di tenerezza, è ribattezzato così per via della capacità che avrebbe nello stimolare le relazioni sociali. Eh sì, ho letto anche questa. Quelle molto strette, insomma, sì. Personali. C'era una notizia su questo pubblicata nei giornali di questi giorni, si riferisce a una appunto indagine dei ricercatori di Bonn. Nelle favole non c'era scritto, ma nella formula "e vissero felici e contenti" si dovrebbe aggiungere "con tanta ossitocina". Ma Nicoletta, a proposito di coppia, oggi ti racconterò una bella novità, perché si possono stipulare dei contratti di convivenza, lo sapevi? No, lo devo dire. Neanche io l'ho scoperto in questi giorni. È un modo molto chiaro per fissare regole precise per le coppie che convivono, soprattutto dal punto di vista economico. Bene, bene, allora, fedeli o infedeli, coniugati o conviventi, single per dovere o per scelta, restate con noi. Potete come sempre intervenire al nostro numero verde 800 24 00 24, scriverci, lo state già facendo, al 349 238 6666. Direi di partire e che gli ormoni ci assistano. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta Essere e benessere. L'amore è una pericolosa malattia. A differenza del morbillo o della varicella, rischia di contagiarci più volte nel corso della nostra esistenza. Ti amerò per sempre. Sei la donna della mia vita. Ma soprattutto non ci lasceremo mai. Sono le tipiche frasi che ci diciamo quando siamo innamorati. Ragazzi, rassegnatevi. Prima o poi nella vita siamo tutti destinati a diventare ex. Mi ama, non mi ama e mi amerà per sempre, o siamo destinati davvero a diventare tutti ex? Si chiama ossitocina, la molecola che viene prodotta dalla madre alla nascita del neonato, grazie alla quale instaura con il bebè un rapporto di fiducia. Potrebbe rappresentare la barriera biologica naturale alla scappatella del partner. Lo hanno dimostrato, come ricordava Deborah, i ricercatori dell'Università di Bonn, con un esperimento che candida l'ormone della fiducia, scudo, diciamo così, contro le scappatelle extraconiugali. Insomma, anche la fedeltà alla sua chimica è energia. Voglio parlare oggi qui dagli studi di Roma. Eccoci con qua. Il dottor Carlo Gargiulo, che qui in studio con me, me lo coccolo un po'. E sono anche un po' invidiosa, Buongiorno, di questa, Deborah. Di questa prossima scappatella volta. Che Nicoletta ha fatto da me. Prossima volta vengo a Milano, promesso. La prego, perché... la prego. Sono molto contenta appunto di poterla conoscere e soprattutto appunto di condividere con Nicoletta la sua presenza. Ma soprattutto perché io sono fedele a voi e quindi Bravissimo. Chiaramente con la puntata di oggi non potevo mancare. Ha fatto bene. Così mi piace. Non ho preso ossitocina, sono fedele naturalmente. Ma si può misurare quanta se ne ha addosso, dottor Gargiulo? Il dosaggio dell'ossitocina è un dosaggio che non si fa normalmente se non per scopi sperimentali, ovviamente. E questa nuova ricerca, diciamo, che mette ancora di più su questo ormone l'accento. Già in passato era venuto fuori in varie situazioni, in diverse situazioni, come questo ormone avesse un effetto diverso negli uomini e nelle donne, ma che in realtà stimolasse poi sempre comunque le relazioni sociali, le relazioni affettive, l'amore. l'amore e quindi la fedeltà di conseguenza, perché poi quando si è innamorati si è fedeli. Ecco che chiaramente noi dobbiamo trovare sempre e comunque un accordo fra quella che è la chimica, la biochimica del nostro organismo e quelle che sono le reazioni emotive. Tutte le nostre emozioni hanno un substrato biochimico, cioè nascondono sotto delle reazioni chimiche. Scoprirle potrebbe essere utile per correggere eventualmente eventuali comportamenti anomali. Certo, non darei l'ossitocina a qualcuno che tradisce così. 800 24 0024, se volete scoprire con noi la chimica dell'amore e magari poi prendere utilizzarla per magari, scopi leciti sempre magari comunque. Aiuta. Allora, l'ossitocina in genere non si misura, c'è uno spray però all'ossitocina. Sì, esistono, esiste la possibilità di somministrarlo per via endonasale, appunto attraverso uno spray, ma noi l'uso che ne facciamo dell'ossitocina è quella per la stimolazione del parto. Viene, è un ormone che aumenta in prossimità del parto nella donna in gravidanza e viene utilizzato anche per stimolare le contrazioni uterine e facilitare il parto naturale. Abbiamo poi tutti questi altri effetti di questa sostanza prodotta dal nostro cervello, dalla neuroipofisi, quindi li dobbiamo studiare, li dobbiamo scoprire meglio, perché dobbiamo analizzarli più a fondo per correggere eventuali deficit, ma questo diciamo è il futuro. Per adesso ci accontentiamo di queste ricerche che sono interessanti per capire la chimica. E sappiamo che come fare per mantenere buoni livelli di ossitocina. È molto semplice, direi estremamente piacevole. Le persone innamorate lo fanno istintivamente. Che fanno? Si baciano. Se per la saggezza popolare un bacio regala sensazioni positive perché suggella l'affetto tra due persone, per gli studiosi americani il segreto del benessere dettato dallo sfiorarsi le labbra è invece nella catena di reazioni chimiche che il bacio provoca. La ricerca, condotta da un gruppo di ricercatori del College Lafayette in Pennsylvania, guidati da Wendy Hill, ha per la prima volta dimostrato che il bacio agisce positivamente sull'umore delle persone, poiché abbassa i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e alza quelli dell'ossitocina, l'ormone del benessere e della socialità. Baciamoci e baciamoci, soprattutto chi sente in questo momento di avere un po' l'ossitocina in calo, diciamo così, dottor Gargiulo. Ma non è soltanto questo, perché baciandosi si mettono in movimento anche tanti muscoli, 35 muscoli facciali, 112 muscoli posturali, per un bacio che vale mediamente dalle 3 alle 6 calorie al minuto di consumo. Quindi bruciamo. Facciamo una ginastica in diretta. Brava, una ginastica facciale. Esatto. E poi la saliva è una sorta di, tra virgolette, lo metto, vaccino. Esatto, una sorta di antibiotico naturale, perché contiene delle sostanze che sono inibenti la produzione dei batteri e quindi chiaramente può essere una sorta di antibiotico naturale. La caratteristica che si aveva una volta di mettere immediatamente magari un dito ferito, una feritina del dito in bocca per cercare di tamponare questa con questo antibiotico naturale. In realtà poi ci sono anche dei rischi, ma magari li vedremo più avanti. 800 24 0024, se volete parlare con noi di chimica ma anche di emozioni, di coppia. Deborah, tra poco parleremo delle coppie che vanno a convivere, esatto, ma tornando al bacio, appunto, io vorrei ricordare insieme al dottor Gargiulo che il bacio è una straordinaria cortina di tornasole della salute della coppia. Certo. Se smettiamo di baciare il nostro partner, di essere affettuosi con lui, non solo l'ossitocina cala, ma significa che qualche cosa si sta già trasformando. Magari è una questione di alito. Posso fare questo blitz che non è molto romantico, però può capitare pure questo. Così oggi da Milano mi è venuta questa cosa qua. Nicoletta, sei stramazzata sulla sedia. Consigliamocene pesanti allora. Okay. Io volevo ritornare un attimo sull'ossitocina, ma parleremo anche di altri ormoni, vero dottor Gargiulo? Certo, ce n'è uno per ogni momento della coppia. Sicuramente ce n'è uno per ogni momento della giornata, perché tutti gli ormoni risentono di ritmi che noi definiamo circadiani, vengono prodotti in maggiore quantità magari la mattina, alcuni il pomeriggio, altri, e quindi dobbiamo rispettarli, vuoi perché è il momento della giornata che possiamo sfruttare meglio per fare alcune attività, anche attività piacevoli e divertenti, oppure... Lei sta... Cioè, le sto per dire una cosa importante, cioè che gli ormoni maschili, come il testosterone, sì, che credo che più tardi rivedremo, sì, vengono prodotti maggiormente il mattino, quindi l'uomo ha più desiderio sessuale la mattina. La cosa comica è che la donna ha più desiderio sessuale di notte, perché i suoi ormoni funzionano meglio di notte. Bisogna trovare un accordo. Ecco, accordiamoci allora. Deborah, sì, intanto ritornando al programma di oggi, sì, noi seguiremo la coppia fedele, mm-hmm, poi arriva il desiderio, il testosterone, che noi ingiustamente pensiamo che sia solamente un ormone maschile, invece ce l'abbiamo pure noi. Esatto, gli ormoni sono presenti negli uomini e nelle donne. Lo stanno anche scrivendo alcuni ascoltatori. C'è qualcuno che ci segnala che se ne fa un uso anche per far partorire, evidentemente in agricoltura, perché ha qualche allevamento. Siamo andati anche su questo terreno. Giambattista, certo, ci racconta questo. Un altro ascoltatore chiede: esiste un integratore per ripristinare a livelli almeno accettabili i livelli di ossitocina, e chiede se sia somministrabile ad una donna in gravidanza, sì, per indurre al parto. Spiegavamo prima, no? Sì. No, non esistono degli integratori, viene somministrata proprio l'ossitocina, mm-hmm, al momento del parto. Allora, in attesa dello spray nasale per, mm-hmm, poter addormentare il nostro partner e legarlo a noi per l'eternità. Appena vediamo un attimo, che guarda, altrove, una spruzzatina. Ecco, però, Deborah. Sì, però grazie all'ossitocina, due cuori e una capanna. Ma c'è una novità per chi a vivere dentro la capanna o dentro una casa, un'abitazione magari più dignitosa di questa, vuole andare senza mettersi l'anello al dito. Infatti sempre più coppie optano per la convivenza piuttosto che per il matrimonio, e l'Istat dice che le famiglie di fatto in Italia sono passate da circa 500.000 nel 2007, sono arrivate nel 2010, nel 2011 arrivate a quota 972.000. Incredibile. Un bel po', comunque, infatti, vuol dire che la gente si ama e va a vivere insieme. Oltretutto, questa mattina c'era anche questo piccolo rapportino pubblicato da Repubblica, secondo il quale un neonato su 4 nasce appunto da coppie nonne sposate, culle sempre più vuote e madri over 40. Questa magari, Nicoletta, se sei d'accordo, è una tendenza che affronteremo in un'altra puntata. Certo, sulle mamme che partoriscono sempre più tardi. Allora, a proposito però delle convivenze, questa che ha appena raccontato Nicoletta è una tendenza talmente rilevante che si è deciso di dare vita ad un nuovo strumento giuridico che ha soprattutto l'obiettivo di regolamentare e disciplinare l'assetto patrimoniale della famiglia di conviventi. Di cosa si tratta? È il contratto di convivenza, ed è un accordo vero e proprio in cui la coppia definisce le regole del proprio vivere insieme, ma vengono esplicitamente messe nero su bianco anche le conseguenze patrimoniali di questa unione di fatto. Nicoletta, patti chiari e amicizia lunga? Direi di sì, in cui proprio si chiarisce chi partecipa alle spese della vita comune, le modalità di utilizzo degli immobili di proprietà e tanto altro ancora, a partire dal 2 dicembre, quindi ancora non è stato siglato nessuno, ma lo chiediamo al notaio che è con noi questa mattina a Cuore Denari, Alessandra Mascellaro, componente del gruppo scientifico Contratti di Convivenza del Consiglio Nazionale del Notariato, che si è occupata direttamente di questa iniziativa. Notaio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, subito, per tutti quegli ascoltatori che vogliono saperne qualcosa in più, che magari nella loro vita di conviventi si sono interrogati su come disciplinare bene questa unione, visto che in tutte le città c'è il registro delle unioni civili, 800 24 00 24 è il numero verde per voi, chiamateci e vi racconteremo tutto. Notaio, allora, proprio pochi giorni fa a Roma il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato i contratti di convivenza Open Day. Questa è una giornata in cui i notai di tutto il nostro paese apriranno i loro studi per tutti coloro che vorranno avere informazioni sul tema della convivenza e su come questa si possa disciplinare dal punto di vista patrimoniale. Questa giornata è proprio sabato, tra l'altro, giusto? Sì, la giornata è sabato 30 novembre, sì, e in realtà devo fare una piccola correzione, sì, perché non saranno tutti gli studi dei notai d'Italia, cioè, ma saranno che i notai tutti... correggono sempre. Saranno tutti distretti notarili d'Italia. Eccolo qua. Il collegio notarile, che è l'organo di vigilanza dei notai, apriva le proprie porte a tutti i cittadini, quindi a tutti coloro che volessero avere un'informazione più specifica e quindi una consulenza specifica anche in relazione a problematiche particolari. Quindi ci sarà una breve presentazione che verrà ripetuta nel corso della giornata e poi saranno disponibili delle postazioni di consulenza in modo che il cittadino che avesse interesse particolare potrà chiedere al notaio proprio di affrontare le questioni specifiche inerenti problematiche. Ecco, allora notaio, andiamo subito alla comprensione di questa problematica, come lei l'ha chiamata. Che cosa sono questi accordi e chi li può stipulare? Sono dei contratti standard, cioè si arriva davanti ad un notaio e si disciplina questa unione con un formulario già pronto, oppure ogni coppia lo personalizza? Allora, il contratto di convivenza innanzitutto si può stipulare fra due persone che hanno una stabile convivenza e che sono legati da un affetto, che si trovano nella impossibilità di sposarsi perché per esempio sono omosessuali o perché sono già legati da un altro vincolo matrimoniale ma devono aver ottenuto già la sentenza di separazione. Ed è assolutamente personalizzato perché ogni situazione è diversa, naturalmente ogni situazione è diversa dall'altra e quindi ci sarà chi vorrà disciplinare per esempio l'utilizzo della casa familiare, chi vorrà decidere l'attribuzione di alcuni beni all'interno della casa, quindi ogni coppia avrà esigenze diverse e starà proprio al notaio costruire un vestito su misura. Ecco, mi piace questo, proprio tagliato e cucito su misura. Sì, come... certo, perché in ogni coppia naturalmente si ha magari una determinata situazione patrimoniale, in altre coppie la casa di proprietà non c'è, ci sono dei possedimenti diversi. Comunque, notaio Mascellaro, che differenza c'è con il registro delle unioni civili che alcune amministrazioni hanno già predisposto, come per esempio è capitato appunto a Milano? Ci sono, come dire, sono due situazioni che possono convivere, che si rafforzano o che si escludono a vicenda? No, possono assolutamente convivere. Il registro delle unioni civili è un registro che è tenuto da alcuni comuni, come appunto diceva lei, appunto a Milano, ha una funzione pubblicitaria, cioè non attribuisce uno status ma ha una funzione solo di pubblicità. In realtà la particolarità è che alcuni comuni riconducono dei benefici a coloro che si iscrivono nel registro delle unioni civili. Per esempio alcuni comuni riconducono la possibilità di essere ammessi ai benefici riconnessi alle assegnazioni di alloggi in materia di edilizia pubblica solo a coloro che sono iscritti nel registro delle unioni civili. Cioè, si può essere assegnatario di un appartamento che fa parte dell'edilizia pubblica se inseriti nel registro unioni civili. Non è uguale per tutti, chiaramente, ma è un esempio. Ecco. Tra l'altro, dottor Gargiulo voleva intervenire. Interessato, come molti dei nostri ascoltatori, vi chiediamo di intervenire se avete dubbi, se volete saperne di più, sul fronte ormoni, sul fronte cuore e capanne. Certo, e contratti di convivenza. Dottor Gargiulo, che cosa le incuriosisce su questo tema? No, mi incuriosiva di capire dal punto di vista dell'eventuale eredità, se uno dei due membri della coppia decede, premuore, che cosa succede? L'altro ha diritto a un'eredità o no? Credo che questo istituto sia nato anche per disciplinare le conseguenze di situazioni di questo tipo, oltre che della rottura della coppia, ma anche quando una coppia appunto finisce perché chiaramente viene a mancare una delle due persone. Ma chiediamo subito al notaio Mascellaro. Sì, grazie della domanda perché è molto interessante. Allora, gliel'abbiamo suggerita noi, No, il dottor Gargiulo è totalmente indipendente dalle nostre grinfie. Grazie Debora, grazie. Questa volta il premio lo merita lei. Allora, le conseguenze e l'eredità. Il contratto di convivenza può disciplinare tante cose. Nel contratto di convivenza non possono essere inseriti i rapporti successori. Il contratto di convivenza può contenere la disciplina dei rapporti economico-patrimoniali in costanza di convivenza. La disciplina dei rapporti successori deve essere invece affidata a un testamento. Pertanto, se io voglio tutelare il mio partner, devo fare un testamento a suo favore attribuendogli particolare diritto, un obbligo di mantenimento. Si va dal notaio, insomma, siete sempre in mezzo, notaio Mascellaro. Però loro suggellano con le loro iniziative appunto tutto quello che ci riguarda. Tra l'altro, poi magari ne parleremo, Nicoletta, se sei d'accordo, nella seconda parte del programma. Certo. Così come il testamento, ti ricordi che ce l'aveva raccontato il notaio Mattea, sempre del Consiglio Nazionale del Notariato? Si può cambiare chiaramente nel corso della vita, bisognerà capire anche se questi contratti di convivenza si possono cambiare ed aggiornare appunto nel corso della relazione della coppia. Magari ne parliamo tra qualche minuto. Ne parleremo e parleremo anche con il dottor Gargiulo. Stanno arrivando molti messaggi, sì, devo dire in parte uguali, uomini e donne, esatto, che ci chiedono: ma come ovviamente si fa a risvegliare il desiderio? Mi sgridano per la battuta, ecco, che ho fatto sull'alito, pazienza, e va bene, ma si offendono per tutto. Speriamo insomma di riequilibrare. Deborah, poi dopo noi avremo Moira dalla provincia di Venezia, sì, e Cledis da Milano. Che bei nomi. Però hai visto? Hai visto, sì. Ah. Però mi sa che è il tempo di andare a nelle raccontare tue mani. Esatto, adesso vi racconto cosa sta succedendo sui mercati finanziari. A tra poco. Cuore e denari. Siamo tornati a Cuore e Denari. Oggi parliamo di coppia, Deborah, di fedeltà, di sì, coppia, anche degli la nostra ormoni. È una coppia nostra di fedeli, no? Siamo fedelissime l'una sai all'altra. Che, sai chi mi sta guardando dai vetri qua, dagli studi di Roma? Lo so già, il Alessandro, Alessandro, no, o chi non c'è? Sta indovinando. Chi c'è? Chi c'è? C'è Gianluca Nicoletti. Brava. Che vuole dire la sua sull'argomento e io sono convinta che ne avrebbe tante. Hai paura. Guarda, chiudilo fuori perché qua se no... Non lo lascio entrare, ma noi lasciamo entrare nel nostro salotto radiofonico Moira, che ci chiama dalla provincia di Venezia, e poi andiamo subito a Cledis, che ci chiama da Milano. Moira, buongiorno. Moira, buongiorno. Buongiorno a voi. È un piacere parlarvi perché vi seguo tutti i giorni e mi piace tantissimo la vostra trasmissione. Moira, grazie, è un Moira piacere per noi parlare con lei. Ci dica tutto. Allora, questa mattina mi avete affascinata con l'ossitocina, ormone che io conosco bene perché la mia professione mi porta spesso a contatto con le mamme. Io gestisco degli asili nido con altre mie socie nella provincia di Venezia. Meraviglia. E spesso con le mamme si parla proprio di ossitocina e io dico sempre che siamo delle dispensatrici naturali di questo ormone. Lei aveva utilizzato un altro termine con le nostre amiche al centralino, sì, Moira. Ho detto pusher, esatto. Siamo dei pusher di ossitocina. In effetti ed è vero, però questo ci aiuta molto nei rapporti con tutti, nei rapporti con il marito in primis, ma anche con i figli, con gli amici, con i colleghi, ed è una grande ancora di salvezza l'ossitocina, in verità. Anche per chi ci vive vicino, Moira. Certo. No? Vabbè, che dice? Ne ha un beneficio indiretto per noi e per gli altri. Grazie Moira, buona ossitocina. Cledis da Milano. Cledis da Milano, buongiorno. Buongiorno, complimenti, siete bravissime. Senta, una domanda. Io vivo da 12 anni, però il mio compagno è separato legalmente, così, però volevo capire se noi possiamo fare questo contratto, certo, e se è valido per qualcosa, non lo so, tipo. Senta, è Cledis, una cosa solo per noi? Certo. O... Cledis, allora, da quello che ho capito, Nicoletta, volevi aggiungere no, qualcosa? Cledis è portoghese? Cledis, no, sono brasiliana. Cledis, tra l'altro, c'è un'altra persona che conosco a questo nome. Ci faccio una domandina, ci dice Cuore Denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Questo è un taglio che Laura e Marco faranno subito per la nostra controcopertina di domani, per la nostra Grazie Cledis. Allora, notaio Mascellaro, se abbiamo capito bene le indicazioni che ci ha dato all'inizio, questo è un caso tipico invece in cui il contratto di convivenza può intervenire. Esattamente, ha colto perfettamente. Abbiamo studiato. Bisognerà andare dal notaio, presentarsi dal notaio con il provvedimento da cui si evince la separazione legale con l'altro coniuge, che il notaio dovrà verificare, però il contratto di convivenza potrà essere stipulato validamente. Certo. Fantastico. Tra l'altro c'è Michela che è rimasta colpita da una frase che ha detto il notaio Mascellaro prima, al 349-238-6666, e dice: legati d'affetto ma nell'impossibilità di sposarsi, ma quindi possono fare questo contratto anche due sorelle, per esempio? Notaio Mascellaro, per due sorelle interverranno, allora, i testamenti. In questo momento quello che stiamo verificando è il contratto di convivenza che lega due persone, che sono due partner, che sono legati da un affetto e da un'unione stabile. Stiamo comunque valutando la possibilità di estendere il contratto di convivenza anche, per esempio, a due sorelle che decidono di vivere insieme e di dividere fra loro le spese, quindi al vaglio anche questi mi benissimo. Perché è una previsione futura. Sì. Quindi era una domanda pertinente. Sì. I notai si danno molto da fare, puntano sì. sulla convivenza, su cui puntiamo anche noi, dottor Gargiulo, perché la convivenza, intesa come unione, essere innamorati, stare bene insieme, aiuta la salute. I ricercatori ce la dicono da tanto. Sì, abbiamo dei dati importanti, anche recentemente una ricerca sulle malattie cardiologiche ha dimostrato che chi convive, chi ha un rapporto stabile, va meno soggetto agli infarti e va meno soggetto a infarti gravi. Ci sono delle spiegazioni legate anche al fatto che probabilmente vivendo in coppia si ha un intervento più precoce, più rapido e quindi alle prime avvisaglie gli uomini che vivono in coppia vengono spesso presi per le orecchie dalla moglie e portati dal medico. Perché noi ci abbiamo l'ossitocina. Esatto. E il pusher che ce la fornisce. È anche vero però che, diciamola tutta, la convivenza appesantisce un po'. Sentiamo. Una storia d'amore stabile fa ingrassare. Questo è il risultato di uno studio americano condotto dall'University of North Carolina e pubblicato sulla rivista Obesity. I ricercatori hanno notato che tra le coppie il numero di individui in sovrappeso è 2 volte maggiore rispetto al gruppo dei single. Le coppie che convivono fanno di solito meno sport e trascorrono più tempo davanti al computer o alla TV. Inoltre, la conquista di un partner e di una relazione stabile fanno sì che la forma fisica corra il rischio di venir trascurata. Esistono anche alcune differenze di genere. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, sono le donne ad ingrassare prima, in genere dopo appena un anno di convivenza, mentre gli uomini temporeggiano un po' e si lasciano andare subito dopo, tra il primo e il secondo anno di vita di coppia. E a voi come sta andando? 800 24 00 24, e quindi parliamo di contratti di convivenza, di ormoni che regolano un po' la nostra convivenza, il nostro grasso amore. Che si è di grasso che si conquista dopo la convivenza. Ma sai, è che un po' sconfortante però questa cosa dell'aumento di peso, diciamoci la verità. Dottor Gargiulo, mi racconta quello di cui parlavamo prima di entrare in onda. Che cosa ti ha raccontato? Una cosa, eravamo qua anche con gli amici, con Valerio che ascoltavamo, Gargiulo, che ci raccontava di questa sorta di ingrassamento, peso chiama peso. Ho commentato sonno chiama sonno, peso chiama peso. Perché, dottor Gargiulo? Sì, perché in realtà all'inizio di un aumento ponderale, quindi quando si comincia ad ingrassare, è soltanto legato al fatto che l'abitudine di vita, come abbiamo appena sentito, cambia, quindi mangiamo un pochino di più e tendiamo ad aumentare leggermente. Ma poi a un certo punto succede che il grasso che si appoggia al girovita, quel grasso che è il più pericoloso e che noi misuriamo con il centimetro quando prendiamo la circonferenza di vita, quel grasso produce delle sostanze simili ai cannabinoidi che stimolano sempre di più a mangiare, stimolano sempre di più ad andare verso cibi ricchi, calorici, soprattutto cibi più grassi, più profumati, più gradevoli al palato. E insomma, piano piano si entra in un circolo vizioso per cui l'ingrassare diventa una vera e propria malattia. E questo è il momento estremamente difficile, quando spesso le diete, se non sono ben bilanciate, non funzionano più, i dimagrimenti improvvisi poi portano a degli aumenti ponderali ancora peggiori. Insomma, bisogna riuscire a non varcare quella soglia, quel limite, quel confine che è il confine fra il sovrappeso e l'obesità. Nel momento del sovrappeso, pochi chili, cerchiamo di perderli subito. Allora io vorrei leggere al dottor Gargiulo per capire come lo interpreta il messaggio di Robby da Treviso, che vedo da qua. Roberto da Piacenza. Ah sì, va bene. Poi io ti leggo. Dottor Gargiulo, io ci ho messo un attimo, ma adesso ho capito che c'è un doppio senso forse. Scherzate, senza un bicchiere di ossitocina non metto nemmeno in moto il camion. Secondo lei è un doppio senso? 800 24 00 24. Per chiamarci, per intervenire su questi temi, te ne leggo due io di messaggi, ma te ne leggo uno che mi è arrivato su Facebook e che mi ha scritto nostro amico che ci segue sempre. Questo ragazzo si chiama Pietro, vive a Brescia e ha una bellissima libreria, ma ti leggo che cosa ha scritto perché è veramente simpatico. Io sono il re dell'ossitocina, sono l'unico l'unico maestro baciologo autorizzato in Italia, e chiunque sostenga che un bacio è solo un bacio non ha mai studiato fino in fondo cosa si nasconde dietro la magia di due bocche che si sfiorano. Conosci il bacio all'eschimese, alla francese, alla thailandese o quello delle isole Trobian? Si possono imparare nuovi trucchi, modi diversi e insoliti, eccetera eccetera, è molto lungo. Comunque il bacio è il miglior biglietto da visita da presentare ad una donna prima di ogni altra cosa. Che ne pensate? Qua altro che contratti di convivenza, chi incontra questo qua? Chiediamo al nostro notaio macellaro, secondo lei... Dopo vogliamo chiedere la sua interpretazione sulla rilevanza del bacio. Risponde la donna e non il notaio. Certo. Sono una donna, non sono un notaio. Notaio macellaro. Alessandra. Però magari, insomma, il contratto di convivenza vuole mettere nero su bianco anche questi aspetti, secondo lei? Cioè, la domanda è se il contratto di convivenza può mettere... Non la vogliamo mettere in difficoltà, però stamattina io sono grande sostenitrice del bacio. Allora, però, se posso dire una cosa, io ho provato qualche volta a dare invece del biglietto da visita un bacio a una donna che incontravo, però mi ha dato certi schiaffoni. Ma il dottor Gargiulo qua veramente simpatico, chissà che cosa non capita dietro, che quante gliene raccontano i suoi pazienti. Beh, sì, avvocato dottore. Ecco, anche su questi aspetti, però devono rimanere ovviamente per la privacy dentro la sala d'aspetto. Però dottor Gargiulo, come dai nostri ascoltatori sentiremo anche telefonate, io sono certa che alcuni dei suoi pazienti le racconteranno che la convivenza spegne un po' il desiderio. Non capita a tutti così, qualcosa si può fare, sì, e l'ormone mette anche lo zampino o gli ormoni. Allora, due aspetti importanti. Uno è sicuramente la convivenza. Avere la certezza e la sicurezza di un partner con cui si convive, con cui ci si ritrova tutte le sere, può portare ad un rallentamento del desiderio sessuale. Però molto lo facciamo anche noi, perché non riusciamo più ad essere così disposti verso il nostro partner come lo eravamo prima di conquistarlo. E poi compare anche un'altra problematica, che è quella legata agli anni che passano. L'uomo con il passare degli anni tende a perdere un po' il desiderio sessuale, a diminuire, questo è fisiologico e succede anche nella donna, soprattutto poi nella menopausa. Con la menopausa si hanno alcune caratteristiche che devono essere corrette in qualche modo, negli uomini e nelle donne. Noi siamo qua per darvi consigli. Esatto, e adesso vi consigliamo di andare tranquilli sulle strade italiane, sentiamo un po' che traffico c'è. Cuore e denari. Ogni rapporto all'inizio è meraviglioso. Si fa l'amore in tutti i posti, in tutti i fiumi, in tutti i laghi, nelle macchine, sui cofani, ci si avvinghia come dei bigatini. C'è la passione che arde. Poi, dopo un po', subentra la quotidianità. Mentre per un uomo la noia è rassicurante. Un uomo è capace di fare per anni le stesse cose... contento, arrivo a casa la sera, ciao amore, sono arrivato, è pronto? No, mi metto a vedere la TV. Per la donna, no. Come sente nell'aria il vago senso di noia, trac, le si crepano le gengive. Eccoci ritornati, ritrovati in diretta, fedeli sì, ma anche appassionati. Come dice lo slogan della nostra radio, la passione si sente, ma anche qui la chimica ci mette lo zampino. C'è infatti anche l'ormone del desiderio presente in uomini e donne, anche se con fama di essere solo maschile. Si chiama il testosterone. Allora, notaio macellaro, torno da lei non per parlare di testosterone, ma per capire, visto che anche questo può essere responsabile di un tradimento, i contratti di convivenza possono tutelare anche rispetto a queste eventualità, rispetto al tradimento? Poi ci sono per lei due ascoltatori pronti ad intervenire all'800 24 00 24, e sono Antonio dalla provincia di Pesaro e Massimo da Bologna. Notaio. Il contratto di convivenza, proprio perché è un contratto, crea degli obblighi giuridici, quindi le parti che sottoscrivono un contratto di convivenza sono tutelate, perché in caso di inadempimento del contratto di convivenza si può andare dal giudice per ottenere il rispetto di quanto è previsto in questo contratto. Una cosa, mi ricollego al discorso del bacio di prima, perché in realtà una cosa è importante precisare, che non possiamo inserire nel contratto di convivenza per esempio l'obbligo di fedeltà o l'obbligo di coabitare, Per cui tutti i diritti che attengono alla sfera proprio personale dell'individuo sono diritti assolutamente che non possono essere inseriti. Mm-hmm. Possono essere inseriti tutti gli aspetti patrimoniali rispetto ai quali, se non adempiuti, noi possiamo ottenere tutela, idonea tutela davanti al giudice. Allora, andiamo a situazioni che vanno oltre e a quelle cioè che concepiscono naturalmente anche la presenza di figli in questa coppia. Allora, sentirei Nicoletta se sei d'accordo. Antonio, sì, Antonio dalla provincia di Pesaro. Buongiorno. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei. Buongiorno a tutti. Ci dica. Io volevo portare la mia testimonianza. Allora, io non capisco questi contratti di convivenza per un discorso patrimoniale, ovvero se io ho un passato con altre persone, poi finisce tutto e vado a convivere con una terza persona, vuol dire che c'è un qualcosa. Certo. Quindi un contratto di convivenza, non lo so, non lo capisco. A me la cosa che preoccupa di più è questo. Allora, io convivo da 3 anni con una persona. Da questa persona abbiamo avuto un bambino che adesso ha 16 mesi e a dicembre avremo il secondo. Bravo Antonio. Grazie. Che fa figli. Ci sono però delle problematiche. Uno è che dovesse mai succedere qualcosa alla mia compagna o dovesse succedere mai qualcosa a me, lei non è legalmente nessuno Certo. andare all'ospedale. Esattamente. Allora senta Antonio, le faccio subito spiegare dal notaio Mascellaro che appunto il contratto di convivenza può anche disciplinare questo aspetto che è molto rilevante. Sì, qui c'è una sovrapposizione di due argomenti, ci sono due domande insieme, rispondo le smezzo. Allora, la prima domanda... mi piace. Sì, brava, notaio. Non ho capito bene se è sul discorso dei figli. No, lui proprio, ha formato questa nuova famiglia con una convivente. Penso che Antonio arrivi da un precedente matrimonio, ma il suo la questione che lui vorrebbe capire bene è come si dovrebbe comportare la nuova compagna qualora lui appunto... stesse male, dovesse andare in ospedale, perché in genere un convivente che non ha nessun rapporto appunto formale e ufficiale con l'altra persona non ha il diritto di assistere la persona in ospedale. Bellissima domanda, grazie, ho capito. Sì, il contratto di convivenza può contenere sia la possibilità, una delega che consente al convivente per esempio di avere informazioni sullo stato di salute laddove ci si trovi in ospedale, perché noi sappiamo che la possibilità di accedere a quei dati che vengono considerati dati sensibili e consentita solo ai familiari, quindi può essere inserita questa delega nel contratto di convivenza. Di più, possiamo inserire per esempio in previsione di una futura incapacità, cioè di un momento in cui non saremo più lucidi, la possibilità di nominare un amministratore di sostegno. Possiamo inserire in questo atto di designazione di amministratore di sostegno anche dare all'amministratore delle direttive anticipate nel momento in cui uno dei conviventi dovesse avere necessità di avere delle cure, e quindi può essere inserito delle indicazioni inerenti la fine vita e il consenso a determinati trattamenti terapeutici. Ecco, e quindi insomma chi contesta un po' anche questo nuovo istituto, chiamiamolo così, ecco la rilevanza che ha anche appunto le ricadute che ha quando si verificano determinate situazioni nelle quali ovviamente quando la coppia va tutto bene, Nicoletta, queste condizioni, come dire, non ci si pensa, no? No, certo che è abbastanza complicato, no, dottor Gargiulo? Ah sì, sicuramente è complicato perché il contratto deve mettere in gioco quello che potrebbe accadere fondamentalmente. Io sono dell'opinione che quando si chiariscono le cose, come in un contratto, come nel testamento, tutto va molto meglio. Perché l'esperienza mia di studio, quando io ho fatto un contratto in uno studio con un collega di cui ero amico da sempre, la nostra amicizia è durata 30 anni ancora. Patti chiari, amicizia lunga. Esatto. È lungo, vita al desiderio. Lo dovremmo fare anche noi. Noi io e te non abbiamo bisogno di contratti. Ci piacciamo così. È vero, è vero. Io sono per le cose semplici. Basta guardarsi negli occhi e tutto va. Samuele da Napoli. Samuele? Dove andai? Salve. Dov'era Samuele? Volevo intervenire a proposito del calo del desiderio in una coppia. Io ritengo, sono in totale contraddizione con ciò che dice il dottor Gargiulo, perché dopo una certa età c'è, e il dottor Gargiulo lo sa, dopo una certa... come uomo secondo lei o come medico? Non so, lo sa a che cosa si riferisce. Come uomo. L'unica cosa per evitare questo bisogna, come dicono i francesi, changer le cheval, cambiare partner. È l'unica cosa che può... risvegliare il desiderio. Non dicono le cheval, ma semmai dicono la femme. Ma comunque non mi piace che lei scambi cavallo con femmine. Ma comunque la sua ricetta la commentiamo adesso con il dottor Gargiulo. Grazie Samuele. Lei l'ha cambiata la donna? Samuele? Lei l'ha cambiata la donna quando è stato in crisi di desiderio? Certo. Poi lo dice anche proprio con un modo. Ma scusa, che domande fate? Vede, Samuele non è d'accordo con lei. Cambia. È bello che qualcuno non sia d'accordo, ma in realtà bisogna anche stare molto attenti. Questo cambio della partner, come diceva Samuele, in realtà può portare a un ulteriore calo del desiderio. Non dimentichiamoci che c'è il rischio anche dell'ansia da prestazione, quindi anche questo può avere la sua influenza e la sua importanza. Io poi ho detto, ed è vero questo, che c'è un calo fisiologico con il passare degli anni, su questo non ci sono dubbi, lo sappiamo tutti, non esiste un'andropausa, cioè non esiste uno stop nella sessualità maschile, ma sicuramente la sessualità dei 20 anni a 40, a 60, a 80 non è la stessa. E ci fermiamo qua, ma torniamo tra poco. Tra l'altro anticipo già Massimo da Cremona che ci scrive al 349-238-6666 che tra un po' parleremo anche del costo di questi contratti di convivenza. A tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme, il cuore a Roma. E il denaro a Milano, come sempre capita. Non è solamente una circostanza di stamattina, ma è noto che qua ci sia la borsa, sì. 800 24 00 24, di borsa abbiamo già parlato, parliamo di cuori, di capanne e di ormoni. Ma volevo leggervi una precisazione che ci arriva dal dottor Alessandro Casano riguardo alla privacy e all'assistenza nella coppia quando uno dei due partner viene ricoverato. E ci scrive: come chirurgo vorrei chiarire un equivoco che sento ripetere troppo spesso. Per la legge sulla privacy, chiunque può avere informazioni su stato di salute o assistere un malato, purché sia stato dato consenso dall'interessato mediante apposita dichiarazione a senso di legge che viene fatta regolarmente firmare al momento del ricovero. Questo mandiamo il messaggio del dottor Casano, che io avevo già letto precedentemente al dottor Gargiulo, perché questo è un messaggio rassicurante. Certo, il problema stavo pensando che comunque il problema è un ricovero fatto magari in una condizione di serenità. Certo. Quando le situazioni sono più gravi, invece magari questo consenso non viene dato, ovviamente, quindi. Bene. Allora noi partiamo 800 24 00 24, parliamo tra poco naturalmente di convivenza, ma del desiderio che si può mantenere vivo. Salva Danaio. Quando finisce un amore così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, senti un nodo nella gola. Allora si vede che Riccardo Cocciante non aveva firmato nessun contratto di convivenza e quindi insomma la fine di questo amore è stato traumatico e tragico. E invece se si firmano questi contratti di convivenza, strumenti che sono comunque totalmente nuovi, ancora notaio mascellaro non è stato sottoscritto nessuno in Italia, perché questa iniziativa formalmente parte il 2 dicembre, giusto? No, in realtà l'iniziativa parte il 2 dicembre ed è un'iniziativa che nasce perché noi notai nei nostri studi da sempre raccogliamo questa esigenza, questa domanda. La domanda che viene che arriva dal cittadino. Quindi già ne facevate già siglare? Qualcuno è stato già sottoscritto. Capito. È chiaro che nel momento in cui il legislatore dovesse intervenire con delle norme, tutta questa disciplina convenzionale pattizia verrà meno, perché sarà il legislatore che in Italia è quindi sovrano. Quindi coprite un vuoto. Prego? Coprite un vuoto legislativo. In questo momento lo sforzo del notariato è stato quello, in relazione a quello che ci chiedono i cittadini tutti i giorni, utilizzando quello che la legge consente, quindi gli schemi contrattuali che abbiamo a disposizione, abbiamo cercato di creare un contratto che rispondesse a quello che tutti i giorni nei nostri studi ci viene chiesto. Senta, ma notaio mascellaro, quanto costa? Abbiamo detto che si tratta di un vestito su misura. essendo un vestito su misura, io me lo posso però fare dal grande sarto oppure dall'amica sarta, ecco, cioè no, può usare una stoffa preziosa o no, ma in sostanza in realtà, la differenza non è grande sarto o amica sarta, ma dipende da quello che sono le esigenze delle parti, perché se gli utenti, i partner che si rivolgono al notaio chiedono un contratto di convivenza semplice, per esempio che vada a disciplinare gli acquisti in costanza di convivenza, per esempio le spese comuni, l'accordo basta. È molto piano e semplice, il costo sarà di un certo genere, se invece chiedono la disciplina di altri risponde il notaio macellano. No, però in realtà abbiamo parlato di un vestito su misura, quindi non possiamo avere un costo fisso se il vestito deve essere su misura, il costo sarà variabile, tra l'altro l'imposizione, cioè fiscale, è quella che purtroppo appesantirà di più questo tipo di contratti. Partiremo da un'imposta fissa di registro e arriveremo nel momento in cui ci fossero degli spostamenti di immobili. Avete l'IVA anche voi sui vostri contratti, immagino, sulle vostre remunerazioni. Avremo l'imposizione immobiliare, quindi c'è anche comunque sempre il carico fiscale. Esatto, che qualche volta sfugge anche, per esempio quando si fa stipula un rogito, effettivamente per esempio a molti sottoscrittori sfugge il fatto che il notaio trasferisce anche delle imposte allo Stato, non è che tutto quello che viene pagato al notaio è appunto parcella del notaio. Siamo responsabili di imposta, quindi il cittadino versa noi le imposte, noi le versiamo, allo Stato. Allora, abbiamo sia questioni ormonali che ci pongono i nostri ascoltatori, sia questioni notarili. Da chi riprendiamo, Nicoletta? Prendiamo Massimo, solo perché aspettava dalla prima parte della trasmissione. Vai. Che ne dici? Massimo dalla provincia di Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Massimo da San Giovanni Persiceto, Bologna. È precisissimo, più preciso di un notaio. Massimo, esatto, ci dica. Esatto, proprio perché mi devo rivolgere al notaio. Facevo questa domanda qua, veramente erano due. Se era possibile prevedere nel contratto di convivenza un'eventuale reversibilità della pensione. Bravo. O eventuali beni da poter lasciare al convivente, tipo una legittima che spetterebbe alla moglie solo se sei in stato di separazione. Benissimo. Se stato di separazione legali, ed eventualmente, se è possibile, da quello che ho capito nell'ultimo intervento del notaio, normalizzare, regolarizzare, mi sembra aver capito, tante cose. Sì, sì. Guardi, se lei va sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato sono già certa che troverà delle informazioni, però intanto queste prime domande le possiamo esaudire. Notaio Mascellaro, la pensione di reversibilità, si può scrivere nel contratto di convivenza che il coniuge che passa miglior vita appunto può indirizzare la reversibilità, allora, al compagno? Pensione di reversibilità, contributi assistenziali e previdenziali non possono essere inseriti nel contratto di convivenza, perché vanno a tutelare un interesse pubblico, pubblicistico, e quindi non fanno parte dei diritti disponibili, cioè le parti non ne possono disporre. C'è qualche invece interprete della materia autorevole che ritiene che diverso sia il discorso del TFR, quindi nei confronti dello Stato resta sempre un interesse pubblicistico da tutelare, tra le parti il TFR può essere lasciato come rendita al convivente, quindi la risposta è contributi assistenziali, pensione di reversibilità no, TFR sì. Direi che Massimo può trovare però il 30 novembre il distretto dei notai di Bologna, qualche sede a punta aperta, che dice notaio può Mascellaro? Può andare a fare un saltino lì, esatto. Che dice? Sì, assolutamente certo. Sì. Nicoletta. Nicoletta va a Cuneo. Ah, da città Giovanni. Città meravigliosa, è dove vero. Si mangia la panna cotta. Giovanna, buongiorno. È anche un'altra cosa che ha un colore più scuro. Il bunet. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Eccola qua, siamo con lei. Niente, appunto quello che ho detto nel messaggio. Io e mio marito ci siamo conosciuti nel 92. Sì. Il matrimonio è iniziato nel 2006. E le ripeto, il desiderio sessuale, anche se non mi piace parlare di cose personali, però in questo caso mi sembrava il caso, non è mai diminuito, anzi è sempre... Sempre forte. È sempre, è sempre. È quello che ci auguriamo tutti. Ma è merito dell'ossitocina qua, Nicoletta? O? No. L'ossitocina viene alimentata, vero, dottor Gargiulo, da carezze, tenerezze, eccetera. Ma poi ci abbiamo il... E poi abbiamo il testosterone. La fava da padrone, fa anche un po' rima, no? Ossitocina, dammi una carezzina. Testosterone, basta. Parliamo di testosterone. Non ho capito come andrebbe a finire, però. Io dicevo, la fa da padrone. Voi due quando vi lascio da soli, veramente qua. Va bene, andiamo al testosterone, dai, Deborah. E allora, sì, è un ormone presente sia nell'uomo che nella donna, ed è l'ormone, il vero ormone della sessualità. Nella sessualità maschile è l'ormone che provoca l'eccitazione, ormone che aumenta il desiderio sessuale, perché bisogna stare molto attenti, anche i farmaci che si utilizzano nel caso delle disfunzioni erettili senza desiderio sessuale non funzionano. Quindi il testosterone è utilissimo in tutte queste situazioni, per cui l'uomo è l'ormone, con un termine che ormai è un po' in disuso, che veniva definito della potenza virile, cioè della capacità dell'uomo di riuscire ad avere un desiderio giusto, una stimolazione giusta, un'erezione giusta. Ma funziona anche molto bene nella donna. Si è visto che le donne, soprattutto quando vanno incontro a interventi chirurgici di asportazione delle ovaie, quindi a un brusco calo di questa quantità ridotta di testosterone, ecco che hanno un deficit, un calo del desiderio che è impressionante. Spesso nella donna il calo di desiderio corrisponde proprio a questa mancanza di testosterone. Quel po' di testosterone ha un effetto anche sulla circolazione, ha un effetto sulla stimolazione genitale. Insomma, è un ormone estremamente importante. Allora, che fare? Intanto lo si può misurare. Nell'uomo si hanno i dosaggi, si fanno i dosaggi di testosterone. In presenza di un dosaggio basso, di una quantità bassa, ma che valore deve avere? Il valore del testosterone deve essere inferiore a 2, se non mi ricordo male, però attenzione, questi sono dati che sono sempre legati a delle variabili di laboratorio. Quindi quando si scende al di sotto di un certo valore, ecco che al di sotto del valore normale, ecco che si può somministrare il testosterone sotto forma di compresse e aiutare questo recupero, questo riequilibrio, un po' come si dà l'ormone per la tiroide o si danno altri tipi di ormoni, come l'insulina ad esempio. Nella donna si utilizzano viceversa cerotti o gel che, applicati sulla cute in situazioni particolari, sempre valutate ovviamente dal ginecologo, tendono a aumentare il desiderio sessuale. Una cosa importante va detta: il testosterone nell'uomo è stato molto demonizzato per la paura del tumore alla prostata. Non è un induttore di tumore alla prostata, quindi è chiaro che va assunto sotto controllo medico, ma non è un induttore di tumore. Tra l'altro, questo ormone svolge numerose altre funzioni oltre a quella di tenere vivo il desiderio, ad esempio sui muscoli, perché aumenta la massa muscolare, aumenta la densità delle ossa, riattiva il collagene per la pelle. Quindi una pelle distesa. Esatto, diciamo che funziona molto nella donna in sinergia con gli ormoni femminili. E quindi chiaramente con questi ormoni, lavorando con gli estrogeni e il progesterone, ha un equilibrio ormonale che è quello che appunto rende la donna più affascinante. Torniamo sempre al discorso che la chimica sottende a tutte le nostre attività. Nicoletta, posso tornare un attimo all'ossitocina? Sì, ti piace mi piace, no? E allora tu sai che io me ne sono innamorata ieri quando tu me ne hai dato questa definizione. È l'ormone dell'accudimento, che credo sia un'immagine meravigliosa. Ma volevo leggerti il messaggio di Amedeo da Sassuolo, che dice: belle ragazze, e intanto solo per questo merita di essere letto questo messaggio. Dopo tanti anni ho capito perché mio padre tradiva mia madre con svariate donne. Era assolutamente privo di ossitocina. Oggi lo rivaluto. Vi ringrazio di cuore. Dottor Gargiulo, è un bellissimo messaggio. Adesso però non vorrei che i nostri ascoltatori andassero a casa e dicessero: guarda, ti devo confessare una scappatella, ma ero in crisi di ossitocina. Ragazzi, non vale. Hai detto una cosa giustissima. C'è stato tempo fa una persona che, a seguito di questo problema che era legato più a questa sexual addict, cioè questa dipendenza dalla sessualità, si è fatto fare una certificazione da consegnare alla moglie dicendo che lui era patologico e il medico lo certificava. C'è anche una bella barzelletta da questo punto di vista. Ecco, guardi, non evochiamo le barzellette perché, come sa dottor Gargiulo, qua si decade facilmente se le raccontano tante, ma qui chiuderei questa parentesi. Torniamo ai nostri contratti di convivenza. Nicoletta, sei d'accordo? Volentieri. Perché abbiamo una domanda di Francesco da Firenze. Francesco? Pronto? Eccoci, buongiorno. Siamo tutte sue. Sì. Io ho ascoltato un po' di interventi di persone che chiedevano consigli su cosa inserire, su cosa poter, su quali clausole poter inserire. E lei che cosa vuole chiedere, Francesco? Io vorrei semplicemente chiedere, siccome mi sembra una forte ricerca di diritti personali, qual è la differenza tra andare tra questi contratti di convivenza e andare a sposarsi civilmente in comune, laddove scatterebbero automaticamente tutte le tutele del mondo, prole, pensioni, successioni? pensione di reversibilità e quant'altro. E credo che la chiusura, che la chiusura di queste due relazioni sia dal punto di vista anche un po' giuridico, notaio Mascellaro, meno problematica forse con il contratto di convivenza. No, in realtà ne abbiamo detto all'inizio che il contratto di convivenza è quella opzione contrattuale suggerita a coloro che non possono o non vogliono sposarsi. Noi sappiamo che al di fuori della convivenza al di fuori di un contratto, quindi di convivenza, i partner non hanno diritti o doveri reciproci. Con un contratto di convivenza possiamo cristallizzare un accordo patrimoniale, quindi di tutela l'interesse patrimoniale, per coloro che non hanno intenzione di sposarsi per mille ragioni, idee proprio, o che non possono farlo perché magari legati da vincoli di matrimonio, con separati chiaramente con altre persone, o perché omosessuali. Chiaro che nel momento in cui, per esempio, due persone conviventi andassero a sposarsi, il contratto di convivenza cessa, perché entriamo nell'ambito dell'istituto del matrimonio a cui sono ricondotti poi diritti e doveri riconosciuti dalla legge. Allora, tra l'altro c'è Giuseppe da Forlì che voleva richiedere sulla reversibilità della pensione, ma abbiamo già risposto prima, quindi direi di non sentirlo. Avvocato, notaio, non è possibile appunto stabilire la reversibilità della pensione? No, ecco. Nei contributi assistenziali. Allora, leggo solo rapidamente una mail che è arrivata a cuoredenari@radio24. L'hai vista tu, Nicoletta? No, sto guardando i messaggi perché ne ho selezionati un paio per sottoporre al dottor Gargiulo. Adesso chiudiamo. Allora, un'ascoltatrice, Anna, vuole sapere se è possibile stabilire un rapporto di parentela tra virgolette per usufruire dei diritti di assistenza tipo permessi lavorativi nel caso in cui uno dei due conviventi sia disabile. Ha una valenza di questo tipo il contratto di convivenza, avvocato ridaglio questo avvocato notaio Mascellaro? Sì, non ho capito bene la domanda, cioè se uno dei due conviventi è disabile, è possibile ricondurre attribuire dei diritti col contratto di convivenza? Esattamente, sì. Per esempio il diritto di assistenza, il permesso da lavoro per l'assistenza appunto di questa persona. Allora, all'interno del contratto di convivenza possiamo mettere in relazione alla disabilità quello di cui parlavamo prima, quindi possiamo eventualmente designare l'amministratore di sostegno e fornire all'amministratore di sostegno dare direttive anticipate. Possiamo poi dare delega al nostro convivente perché in caso di malattia possa per esempio accedere a quei dati personali e quindi delegare il nostro convivente ad acquisire dei dati personali relativamente alla propria salute. Perfetto, grazie notaio. Nicoletta, sì, dove sei? Sono qua, perché ho pasticciato con i pulsantini. Pure noi. Perché volevo, abbiamo pochi secondi, ma il dottor Gargiulo Rosaria ci scrive: sulla somministrazione di testosterone avete omesso la caduta possibile di capelli negli uomini e poi lì voi impazzite, e la crescita di peluria nelle donne. Anche pure noi. Andiamo di ceretta, ma non ci piace tanto, è vero, è uno degli effetti collaterali. È uno degli effetti collaterali, però ho commesso anche un altro errore, questo ne chiedo scusa. I valori di testosterone me li sono andati a ricontrollare perché a me piace essere preciso. Quando si parla di per un deficit lieve di testosterone siamo sotto i 350 nanogrammi per decilitro. Mamma. Deficit grave sotto i 200 nanogrammi per decilitro. Avevo dato un valore sbagliato, è importante ricordare che questo è quello. Ma noi le perdoniamo. Bravo, tutto, dottor Gargiulo. È preciso quanto un notaio, anzi di più. Hai visto che abbinamento che abbiamo fatto stamattina? Posso salutare il notaio Alessandra Mascellaro, che non mi ha detto sul bacio, ma poi me lo l'abbiamo poverino, l'abbiamo messo in crisi. Lo mandiamo volentieri. Grazie Nicoletta, torni o da me domani? Sì, torno. Stanotte sono da te. Domani ritorno a Milano. E domani siamo in fiera di Milano con agenti.it. E vi aspettiamo naturalmente. A domani. Andate sul sito. Buona grazie ai nostri ospiti, al dottor Carlo Gargiulo e anche a Valerio Rocchetti, che è qua a Roma, che mi assiste. Guarda che Gianmario qui è geloso, eh. Lo so. A domani. Ciao ciao.